I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Ieri si è aperto il nono round del confronto tra Europa e Stati Uniti per arrivare a un accordo di libero scambio per quello che riguarda commercio e investimenti, che va sotto il nome di TTIP. L'obiettivo, appunto, è arrivare a una riduzione delle barriere tra i due continenti, realizzare una zona di libero scambio che supererebbe i singoli accordi tra Stati Uniti e paesi europei, e aumentare l'export dell'Europa verso gli Stati Uniti. Si considera che potrebbe crescere di quasi il 30%. Certo, mancano ancora moltissimi nodi e scogli da superare. È difficile, se non impossibile, che questo nono round porti un accordo definitivo, ma molti dei protagonisti ritengono che, se non si arriverà a una svolta, comunque dovrebbero essere fatti passi avanti verso un accordo. Manca ancora poi il via libera, il mandato del Congresso americano al presidente Obama affinché tratti a 360 gradi la realizzazione di un'area di libero scambio, e molte critiche sono arrivate per la segretezza dei contenuti delle trattative. Alcune associazioni temono che vadano a vantaggio più delle aziende che dei consumatori. Giusto chiedere maggiore trasparenza, ma è anche importante non dimenticarsi l'obiettivo finale. Gli Stati Uniti restano infatti l'area di maggiore importanza per tutte le esportazioni europee, e occorre ricordare che, se questo accordo per qualche motivo non dovesse essere raggiunto, nel frattempo altre aree geografiche ed economiche stanno realizzando e realizzeranno i loro accordi di libero scambio, con la conseguenza di creare un danno, oltre che diretto, anche indiretto, alle esportazioni europee, che restano, se non l'unico, il principale motore della già scarsa ripresa economica dell'area euro. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Ma il debito sì, e non riguarda soltanto l'Italia. I nuovi dati che sono stati forniti proprio oggi dall'Ufficio Statistico dell'Unione Europea dimostrano infatti in Europa, dove la crescita è bassa, ma invece la crescita del debito complessivo dei paesi dell'Eurozona continua ad essere molto alto. Le ultime cifre parlano chiaro: per l'intera Europa il debito alla fine dell'anno scorso è salito al 91,9% del PIL, dal 90,9% del 2013. È la Grecia soltanto? Certamente la Grecia continua ad essere il paese che ha la montagna di debito più alto, e tanto è vero che ne rimane schiacciata. 177,1% del prodotto interno lordo, era il 175% appena un anno prima. E l'Italia? L'Italia è il secondo debito più alto dell'Unione Europea. Siamo arrivati al 132,1% del PIL contro il 128% del 2013. Sembrano pochi punti, ma ogni punto sono centinaia di miliardi che si aggiungono al debito dell'Europa e al debito anche dell'Italia. Che cosa dire? È il momento sicuramente di pensare oltre la Grecia. Non basterà salvare infatti Atene dai debiti e dai problemi che ha con i creditori, ma cominciare ad affrontare un problema più strutturale. Affrontare il nodo dei debiti è sicuro, ma guardare avanti e cercare di fare politiche per la crescita significa dare un futuro non soltanto alla Grecia, ma a tutta l'Unione Europea. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.